mio paese le piazze son piene di volti scuri scavati di pene, mani invecchiati dal nero cammino, alberi gialli che stan per morire, aride zolle di terra bruciata, abbandonata per disperazione, da gente che sangue e sudore ha versato, e pane in cambio non ha mai avuto. Al mio paese le case son piene di gente vecchia, di mamme e bambini che aspettano con ansia il denaro straniero dentro una busta listata di nero. I nostri giovani vanno a morire nelle ferrose e buie miniere dove il sistema li ha condannati a farsi ammazzare, a fargli emigrati. Al mio paese le piazze son piene di gente sfruttata e senza domani, gente che pene da sempre sopporta e che di rabbia si sente scoppiare. Il mio paese è una bomba al tritolo dove l'innesco si sta consumando, e quando al fine la miccia sarà, questo sistema saltare farà. Al mio paese, nel meridione, scoppiare potrà la rivoluzione.